Andiamo, Sonia, Milano. Sì, buonasera. Allora, buonasera, Sonia. Io vorrei indurre mio marito di andare al teatro e non passare tutto il tempo libero a dormire e guardare la televisione. E poi per perfezionare la lingua italiana, sono straniera e siccome lui non vuole andarci, io... Di dove sei, Sonia, esattamente? Sono di origine croata. Senti, e tuo marito, non ho capito, dorme davanti alla TV o guarda la TV e basta? No, lui guarda 5 minuti e poi dorme. Ok, ma da quant'è che sei in Italia? Sonia? Da un po' di tempo. Beh, però lo parli benissimo l'italiano. E, preferirei sentire le parole usate bene, non quelle usate dalla televisione o dai giornali va bene. Volantini. Sonia, grazie mille, ti tengo in considerazione e ci sentiamo più tardi. Grazie. Arrivederci. Ciao, arrivederci. Andiamo da Anita. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno Anita, come va? Bene, bene, grazie. Molto bene, anzi. Tu sei di Milano, Anita? Sono di Milano. Quindi saresti sì. Comoda per andare al Teatro dell'Elfo? Molto comoda, in effetti. Però perché lo vorresti? È perché io e mio compagno siamo molto impegnati tutti e due. Quando ci vediamo passiamo... il tempo che abbiamo lo passiamo a fare l'amore. Ma scusami, e ti pare che tu vuoi mollare quello per andare a teatro? No, non lo voglio mollare, lo voglio solo aggiungere, tanto per cambiare. Ma cioè, non è che sia annoiata, voglio dire una cosa bella. Ma quante volte vi vedete, scusami Anita? Insomma, perlomeno una volta alla settimana. Non è così facile. Certo. Una volta ogni tanto possiamo avere ogni tanto un'occasione per fare qualcos'altro. Ma non va bene, Anita, tengo in considerazione anche questa. Grazie. Grazie. Ciao, Ilenia, Milano, pronto? Ileana. Ah, scusami, ammazza. Niente. Poi se vinco, capito? Come dici, scusami? Se vinco poi mi sbaglio. No, hai ragione, ma infatti era scritto giusto. Ileana, dimmi perché sì. Lo vorresti, Ileana. Allora, lo vorrebbe mio marito. No. Che non poteva telefonare perché sono sempre io quella che trovo i biglietti per andare a teatro, gli spettacoli di buona occasione, così, e quindi sono io quella, e lui non ci riesce mai, quindi mi ha telefonato dicendo non posso telefonare io, ti prego telefona tu, e lo vorremmo anche perché abbiamo 3 figli e maschi e quindi 3 serate fuori ci darebbero un po' piacere. Guarda, non sei l'unica che vorrebbe star lontana dai figli, però ti tengo in considerazione. Grazie Ileana, ciao. Prego, ciao.